Quanto alla mia relativa rovina, ne ero tanto più infastidito in quanto le mie curiosità veneziane si erano da poco concentrate su una giovane venditrice di vetrerie, la cui carnagione di fiore forniva agli occhi rapiti tutta una gamma di toni aranciati e mi dava un tale desiderio di rivederla ogni giorno che, rendendomi conto di come fossimo ormai vicini mia madre e io a lasciare Venezia, ero risoluto a cercarle a Parigi una sistemazione qualsiasi che mi consentisse di non separarmi da lei. La bellezza dei suoi 17 anni era così nobile, così radiosa, da farne un vero Tiziano, che bisognava comprare prima di andarsene. E quel po' di patrimonio che mi restava sarebbe stato sufficiente a tentarla abbastanza perché lasciasse il suo paese e venisse a vivere a Parigi per me solo. Ma finendo di leggere la lettera della gente, una frase in cui diceva «Mi prenderò cura dei vostri riporti», mi ricordò un'espressione quasi altrettanto ipocritamente professionale che la donna delle docce di Balbec aveva usato parlando ad Aimé di Albertine. «Ero io che mi prendevo cura di lei», aveva detto. E queste parole, che non mi erano mai tornate alla mente, fecero girare come un sesamo i cardini della segreta. Ma dopo un istante essi si richiusero sulla murata viva che io non ero colpevole di non voler raggiungere dal momento che non riuscivo più a vederla, a ricordarmele che gli esseri esistono per noi solo grazie all'idea che abbiamo di loro, resami tuttavia per un istante più commovente dall'abbandono che lei peraltro ignorava. Per la durata d'un lampo avevo avuto nostalgia del tempo già così lontano in cui soffrivo notte e giorno per la compagnia del suo ricordo. Un'altra volta, a San Giorgio degli Schiavoni, un'aquila a fianco d'uno degli apostoli e stilizzata nello stesso modo, risvegliò il ricordo e quasi la sofferenza provocata da quei due anelli di cui Françoise mi aveva rivelato la somiglianza e di cui non avevo mai saputo chi li avesse regalati ad Albertine. Una sera, però, si verificò una circostanza tale che parve che il mio amore fosse sul punto di rinascere. Nel momento in cui la nostra gondola si fermò ai gradini dell'albergo, il portiere mi consegnò un telegramma che il fattorino era già venuto a portare 3 volte perché a causa dell'inesattezza del nome del destinatario, che tuttavia attraverso le deformazioni degli impiegati italiani capii essere il mio, si esigeva una ricevuta attestante che il telegramma era davvero per me. Lo aprii, non appena fu in camera mia, e gettando un'occhiata su un modulo riempito di parole mal trasmesse, riuscii non di meno a leggere «Amico mio, voi mi credete morta, perdonatemi, sono vivissima, vorrei vedervi parlare di matrimonio quando tornate teneramente Albertine». Avvenne allora, in modo inverso, lo stesso che per la nonna, quando avevo saputo di fatto che la nonna era morta, non avevo avuto dapprima alcun dolore e non avevo realmente sofferto della sua morte se non quando dei ricordi involontari me l'avevano resa viva. Adesso, che nel mio pensiero Albertine per me non viveva più, la notizia che era viva non mi diede la gioia che avrei immaginata. Albertine non era stata per me che un fascio di pensieri. Era sopravvissuta alla sua morte materiale fin tanto che questi pensieri vivevano in me. In compenso, ora che quei pensieri erano morti, Albertine non risuscitava affatto per me con il suo corpo. E accorgendomi di non provare gioia che lei fosse viva, di non amarla più, avrei dovuto essere più sconvolto di uno che guardandosi in uno specchio dopo mesi di viaggio o di malattia s'accorge di avere dei capelli bianchi e una faccia nuova, d'uomo maturo o di vecchio. È una cosa che sconvolge perché vuol dire l'uomo che ero, quel giovane biondo, non esiste più, io sono un altro. Ebbene, la sostituzione così completa di questo io nuovo non è un cambiamento altrettanto profondo, una morte altrettanto totale dell'io che si era, quanto vedere un volto rugoso sormontato da una parrucca bianca rimpiazzare l'antico. Ma di essere diventati un altro, col passare degli anni e nell'ordine della successione del tempo, non ci si affligge più di quanto ci si affligga in uno stesso periodo d'essere via via gli esseri contraddittori, il cattivo, il sensibile, il delicato, il villano, il disinteressato, l'ambizioso, che si è via via in ogni giornata. E la ragione per cui non ci si affligge è la stessa, e cioè che l'io eclissato, momentaneamente in quest'ultimo caso e quando si tratta del carattere, per sempre nel primo caso e quando si tratta delle passioni, non è più lì a deplorare l'altro, l'altro che è in quel momento, o è ormai, tutto ciò che siamo. Il villano sorride della sua villania quando siamo il villano, e lo smemorato non si rattrista della sua mancanza di memoria perché, appunto, se n'è dimenticato. Non sarei stato capace di risuscitare Albertine perché non lo ero di risuscitare me stesso, di risuscitare il mio io d'allora. La vita, secondo la sua abitudine, che è quella di cambiare la faccia del mondo con il lavorio incessante di cambiamenti infinitamente piccoli, non mi aveva detto all'indomani della morte di Albertine «sii un altro», ma, con cambiamenti troppo impercettibili perché mi fosse consentito di rendermi conto del fatto stesso del cambiamento, aveva quasi completamente rinnovato tutto dentro di me. Di modo che il mio pensiero era già abituato al suo nuovo padrone, al mio nuovo io, quando si accorse che era cambiato. Era da lui che dipendeva. La mia tenerezza per Albertine, la mia gelosia dipendevano, lo si è visto, dall'irragiarsi per associazione di idee di certi nuclei di impressioni dolci o dolorose, dal ricordo di Mademoiselle Vinteuil à Montjouvain, dai dolci baci della sera che Albertine mi dava sul collo. Ma a mano che queste impressioni s'erano affievolite, l'immenso campo di impressioni che esse coloravano d'una tinta angosciosa o dolce aveva ripreso toni neutri. Una volta che l'oblio si fu impadronito di alcuni punti fondamentali di sofferenza e di piacere, la resistenza del mio amore era vinta, non amavo più Albertine. Cercavo di ricordarla. Avevo avuto un giusto presentimento quando, due giorni dopo che se n'era andata, m'aveva fatto paura essere riuscito a vivere 48 ore senza di lei. Era come quando, un tempo, avevo scritto a Gilbert pensando «se continua così per 2 anni, non l'amerò più». E se quando Swann mi aveva chiesto di rivedere Gilbert, m'era venuto da pensare al disagio di ospitare una morta, per Albertine la morte, o ciò che avevo creduto la morte, aveva compiuto la stessa opera che la lunga separazione per Gilbert. La morte non agisce in modo diverso dall'assenza. Il mostro alla cui comparsa il mio amore aveva tremato, l'oblio, aveva finito, secondo le mie previsioni, col divorarlo. Non solo la notizia che era viva non ridestò il mio amore, non solo mi consentì di constatare quanto fosse ormai avanzato il mio ritorno all'indifferenza, ma impresse istantaneamente a quest'ultimo un'accelerazione così brusca da farmi chiedere retrospettivamente a me stesso se, a suo tempo, la notizia opposta, quella della morte di Albertine, non avesse inversamente, perfezionando l'opera della sua fuga, esaltato il mio amore e ritardato il suo declino. Sì, ora che saperla viva e nuovamente raggiungibile me la rendeva di colpo così poco preziosa, mi chiedevo se le insinuazioni di Françoise, la stessa separazione e persino la morte, immaginaria ma creduta reale, non avessero prolungato il mio amore. Tanto gli sforzi dei terzi e quelli stessi del destino per separarci da una donna non fanno che legarci a lei. Adesso succedeva il contrario. Del resto, cercai di ricordarla e forse perché non avevo più che da fare un cenno per averla, il ricordo che mi venne fu quello di una ragazza già alquanto massiccia, mascolina, nel cui viso sciupato si scorgeva già, come in germe, il profilo di Madame Bontemps. Cosa avesse potuto fare con André o con altre non mi interessava più, non soffrivo più del male che così a lungo avevo creduto inguaribile e, in fondo, avrei potuto prevederlo. Certo, Il rimpianto di un amante, il sopravvivere della gelosia, sono malattie fisiche allo stesso titolo della tubercolosi o della leucemia. Tuttavia, fra i mali fisici c'è modo di distinguere quelli che sono provocati da un agente puramente fisico e quelli che non agiscono sul corpo che attraverso la mediazione dell'intelligenza. Soprattutto se la parte dell'intelligenza che funge da cinghia di trasmissione è la memoria, cioè se la causa è annientata o allontanata, per crudele che sia la sofferenza, per profondo che appaia il turbamento apportato nell'organismo, è ben raro, dato che il pensiero ha una capacità di rinnovamento o meglio una incapacità di conservazione che i tessuti non hanno, che la prognosi non sia favorevole. Trascorso il tempo che occorre a un malato di cancro per morire, è ben raro che un vedovo o un padre inconsolabile non sia guarito. Io lo ero. Era per quella ragazza che rivedevo adesso così gonfia e che era certo invecchiata come erano invecchiate le ragazze di cui si era invaghita, era per lei che avrei dovuto rinunciare alla splendente ragazza che era il mio ricordo di ieri, la mia speranza di domani. E alla quale non avrei potuto dare niente, né a lei né a nessun'altra, se avessi sposato Albertine. Rinunciare a questa nuova Albertine, non point elle que l'on vue les enfers, mais fidèle, mais fière et même un peu farouche? Era lei, adesso, ciò che Albertine era stata un tempo. Il mio amore per Albertine non era stato che una forma passeggera della mia devozione alla giovinezza. Crediamo di amare una fanciulla e in lei non amiamo, ahimè, che l'aurora di cui il suo volto riflette momentaneamente il rossore. Passò la notte. Al mattino restituii il telegramma al portiere dell'albergo dicendo che mi era stato consegnato per errore e che non era per me. Mi disse che, adesso che era stato aperto, gli avrebbe creato dei problemi, che era meglio che lo tenessi. Me lo rimisi in tasca. Ma mi ripromisi di fare come se non l'avessi mai ricevuto. Avevo definitivamente smesso d'amare Albertine. E così quell'amore, dopo essersi tanto discostato da quanto avevo previsto sulla base del mio amore per Gilberte, dopo avermi fatto fare una deviazione così lunga e così dolorosa, finiva, dopo aver costituito un'eccezione, per rientrare a sua volta, proprio come il mio amore per Gilberte, nella regola generale dell'oblio. Ma allora pensai, tenevo ad Albertine più che a me stesso. Adesso non tengo più a lei perché, per un certo tempo, ho smesso di vederla. Il mio desiderio che la morte non mi separi da me stesso, il mio desiderio di risuscitare dopo la morte, questo desiderio, non era come quello di non essere mai separato da Albertine. Durava sempre. Era perché mi credevo più prezioso di lei e, anche quando la amavo, amavo ancora di più me stesso. No, era perché, smettendo di vederla, avevo smesso d'amarla, mentre non avevo smesso di amarmi perché i miei legami quotidiani con me stesso non erano mai stati interrotti, come invece con Albertine. Ma se anche quelli con il mio corpo, con me stesso, si fossero interrotti, sicuramente sarebbe accaduta la stessa cosa. Il nostro amore della vita non è che una vecchia relazione di cui non sappiamo liberarci. La sua forza sta nella sua permanenza, ma la morte, interrompendola, ci guarirà dal desiderio dell'immortalità. Quando, dopo colazione, non andavo a vagare solo per Venezia, mi preparavo a uscire con mia madre e, per prendere certi quaderni in cui prendevo degli appunti relativi a un mio lavoro su Ruskin, salivo in camera mia. Nella bruschezza dei gomiti di muro che ne facevano rientrare gli angoli sentivo le restrizioni dettate dal mare, la parsimonia del suolo. E quando scendevo per raggiungere mia madre che mi stava aspettando, alla stessa ora in cui a Combray era così bello gustare la prossimità del sole nell'oscurità conservata dalle imposte chiuse, qui, dall'inizio alla fine della scalinata di marmo di cui, come in un dipinto del Rinascimento, non si capiva se sorgesse in un palazzo o su una galea, la stessa freschezza e lo stesso senso dello splendore del fuori erano assicurati dal tendaggio che si muoveva davanti alle finestre perpetuamente aperte e attraverso le quali, in un'incessante corrente d'aria, l'ombra tiepida e il sole verdastro filavano come su una superficie galleggiante, evocando la vicinanza mobile, il tipo di luce, la scintillante instabilità dell'onda. La maggior parte delle volte era verso San Marco che mi dirigevo, e tanto più volentieri in quanto, poiché per arrivarci bisognava innanzitutto prendere una gondola, la chiesa non mi si rappresentava come un semplice monumento, ma come il termine di un tragitto sull'acqua marina e primaverile con cui San Marco faceva un tutto indivisibile e vivente. Entravamo, mia madre e io, nel battistero, posando i piedi sui mosaici di marmo e di vetro della pavimentazione, avendo davanti a noi le larghe arcate di cui il tempo ha leggermente inflesso le superfici svasate e rosee, il che dà l'impressione che la chiesa, là dove esso ha rispettato la freschezza di quella tinta, sia costruita in una materia dolce e malleabile, come la cera di giganteschi alveoli. E là, dove invece ha indurito la materia e dove gli artisti l'hanno traforata e ravvivata d'oro, che sia la preziosa rilegatura in un qualche cuoio di Cordova del colossale Vangelo di Venezia.